Letture di Radio 24. Lo scarso interesse mostrato dalla politica nei confronti della calamità che ha colpito il Veneto rischia di creare una nuova frattura e la minaccia dello sciopero delle tasse è solo il primo segnale. Incrociando le dita e sperando che non si verifichino nuovi sconquassi, il bilancio di una settimana di alluvione in Veneto è comunque pesantissimo. I danni più evidenti sono ovviamente di carattere materiale. 3 morti, 4.000 famiglie coinvolte, 2.000 tra case e capannoni colpiti, 200-300.000 capi di bestiame annegati. Ma si sta correndo il rischio di una nuova frattura politico-culturale tra il Nord-Est e le élite di questo paese. I veneti hanno la fondata percezione di essere stati lasciati soli persino nella rappresentazione fotografica del loro dramma, come se l'Italia, considerandoli ricchi ed egoisti, si fosse girata dall'altra parte, non avesse voluto vedere nemmeno le immagini del diluvio, avesse stabilito un'ipotetica classifica dei veri bisognosi e avesse escluso coscientemente gli sfollati, gli agricoltori e gli artigiani di Vicenza, Padova e Verona. Come diceva il famoso refrain di Enzo Iannacci, no, tu no. Sarà un caso, ma si sono tenute nel weekend in Italia, in città diverse tra loro, 3 importanti e appassionate kermesse politiche. Né da Gianfranco Fini, a Perugia, né da Pierluigi Bersani a Roma e nemmeno dai rottamatori di Matteo Renzi, Firenze. È venuto un segnale politico, un gesto di solidarietà, l'apertura di una sottoscrizione, l'invio di squadre di volontari. Sembra quasi che il Veneto non meriti empatia. E questo perché le élite nazionali, in fondo, continuano a considerare quella del Nord-Est una società chiusa, brulicante di intolleranti ed evasori. La minaccia avanzata domenica scorsa dagli industriali vicentini di mettere in atto lo sciopero delle tasse è figlia di questo risentimento. È la constatazione di una ferita che si pensava in via di sutura e che invece l'inondazione ha addirittura allargato. I veneti sanno che in passato, in tanti casi analoghi, la solidarietà centrale verso le popolazioni colpite era arrivata a istituire tasse di scopo, magari caricate sul prezzo della benzina. È evidente che l'opinione pubblica nordestina si ribella davanti all'ipotesi di aumentare la pressione fiscale nazionale, anche se a fin di bene, mentre è decisamente favorevole a una mini secessione fiscale, una sorta di anticipo del federalismo. È presto per dire se questa proposta avrà un seguito concreto. Di sicuro un'Italia che volesse continuare a considerare il Veneto alla stregua di un figliastro si darebbe la zappa sui piedi. Perciò già dai prossimi giorni, sperando nel frattempo di non dover raccontare nuovi disastri, c'è bisogno di un gesto di riconciliazione che riconosca, apertis verbis, i meriti e le sofferenze di una comunità. Avete ascoltato la lettura dell'editoriale di Dario Di Vico, Lo sciopero delle tasse e le ragioni del Veneto allagato e ignorato, dal Corriere della Sera dell'8 novembre. Letture di Radio 24. Quando si parla dei tempi lunghissimi della giustizia civile in Italia, c'è chi dà la colpa agli italiani e alla loro litigiosità. Ma quasi sempre, quando si ricorre al giudice, lo si fa perché non esistono alternative. Vi è un evidente disagio in quanti, giustamente, ritengono sbagliate e pretestuose le tesi anti-magistratura espresse ogni giorno da settori della maggioranza di governo. È il disagio di rischiare di apparire difensori di una giustizia deludente, che non funziona anche quando non sbaglia. Io credo che anzitutto i magistrati devono fare i conti con questo disagio, ma credo anche che i cittadini debbono sapere di cosa si parla e quali sono i termini veri della questione. Parliamo della giustizia civile, la cui inesorabile lentezza cancella ogni funzione positiva. Sappiamo tutti che nel nostro paese si fanno più cause che in qualunque altro ad esso paragonabile. Si dice perciò che gli italiani sono litigiosi, come se essi si divertissero a far cause e a pagare avvocati. Non credo sia così. In Italia ricorrere al giudice civile è una necessità, nel senso etimologico della parola. Non vi è altro da fare, quando si ha ragione, che ricorrere al giudice. perché soprattutto i cosiddetti debitori professionali, cioè quei soggetti la cui attività comporta la normale assunzione di obblighi di natura pecuniaria, semplicemente non pagano. Le ragioni sono tante. Perché non hanno soldi, perché barano al gioco del processo, perché un giudizio civile offre possibilità di accordi transattivi al meglio, offre insomma la possibilità di risparmiare. Comunque è dato strutturale paurosamente alto nel nostro paese che i debitori professionali, e tra questi anzitutto le amministrazioni pubbliche, e quindi i comuni, non pagano anche se debbono, e preferiscono la futura, lontanissima sconfitta in tribunale. Solo nel nostro paese si fa una causa civile quando si dispone di una cambiale firmata dal debitore, cioè di uno strumento che ha la stessa forza di una sentenza di condanna. Solo nel nostro paese si deve ricorrere al giudice quando si dispone di un provvedimento amministrativo definitivo con il quale l'amministrazione afferma il proprio debito. Succede allora che il creditore si rivolge al giudice, ingolfando i tribunali e rallentando la macchina. Il rallentamento comporta un vantaggio crescente e una giustificazione ulteriore a tutte le tecniche dilatorie del proprio adempimento. Una macchina infernale che alimenta se stessa e che premia semplicemente chi ha torto. Fino a quando le pubbliche amministrazioni innanzitutto, perché esse certamente sono tenute al rispetto della Costituzione della Repubblica, nella parte in cui essa impone il principio di buona amministrazione, non cesseranno di considerarsi altra cosa rispetto all'amministrazione della giustizia e comprenderanno che non si può scaricare sul giudice, ad esempio, la propria difficoltà di bilancio, continueremo a dare vita a processi inutili. Questi renderanno lenti anche quelli utili, e creeranno lavoro giudiziario inutile, funzionale soltanto a sostenere le categorie professionali interessate. Come è ovvio, inefficienza e lentezza sono diventate straordinarie e utilizzatissime opportunità, le quali creano complicità e resistenze al cambiamento. È più semplice prendersela con la giustizia, virtualmente intesa, più o meno anonima, e magari buttarla in politica, piuttosto che parlare seriamente. Intendiamoci, la giustizia è anche una grande questione politica, giacché vi sono questioni che debbono essere risolte dalla politica. Ma vi sono anche inefficienze e colpe gravissime e ritardi incomprensibili nell'attenzione di ogni criterio di modernità che possono essere affrontati senza scuse ideologiche. Credo che ragionare in modo pacato di queste cose intanto mette un po' di razionalità nella loquace follia che ci circonda, ma possa anche individuare le priorità di una riforma che vada verso una convivenza sociale ordinata. Priorità che non riguardano le toghe rosse o la separazione delle carriere, ma semplicemente la funzione del processo. Avete ascoltato la lettura dell'articolo L'inesorabile lentezza della giustizia civile di Giuseppe Maria Berruti, consigliere presso la Corte di Cassazione, dal Messaggero del 3 novembre. Gergei è un paesino di 1500 abitanti che si trova a un'ora e mezza da Cagliari, che si sta lentamente spopolando perché preferiscono andare a vivere in città. Ma tre di loro si sono inventati Sardinia Farm, un sito che permette di adottare pecore a distanza. Grazie a internet e alla formula diventa pastore o fattore a distanza, Gergei ha catturato la curiosità stupefatta dei media, televisione canadese compresa. Sardinia Farm, nel frattempo, è diventata anche un profilo su Facebook, dove innumerevoli affezionati, la gran parte dalla penisola, incoraggiano la famiglia, ripromettendosi di ritagliarsi qualche giorno per una visita a casa Concas, accolti da un'ospitalità d'altri tempi, essenziale e fiera. Cosa significa adottare una pecora? In cambio di 390 euro l'anno, i circa 60 padrini, alcuni alla testa di improvvisati gruppi d'acquisto di colleghi e amici, ricevono 8 forme di squisito pecorino sardo. L'alternativa è diventare fattore a distanza. Arrivano a casa 2 cesti con prelibatezze sarde, compresi mirto, pani carasau e maloreddus, confezionati dalle 3 donne di casa che gestiscono anche le adozioni in rete. Il padrino sceglie il nome dell'animale e riceve una carta d'identità plastificata che ne attesta persino statura e colore degli occhi. Il mestiere di pastore è a rischio d'estinzione anche in Sardegna, isola che ospita più capi ovini, oltre 3 milioni, che esseri umani, circa 1,6 milioni. In paese a nessun giovane verrebbe in mente di diventare pastore. A fare questo mestiere a Gergei è rimasta una 60ina di irriducibili, ancora disposti a passare con le pecore 365 giorni l'anno. Avete ascoltato alcuni passaggi dall'articolo di Elena Meschiari Nei pascoli del web, dal numero di novembre del mensile 24.